chi fa sogni atroci sulle voci nella mente dei feroci. L'uomo sa che non va la paura dell'aldilà, sogni atroci sulle voci nella mente dei feroci. L'uomo sa che non va la paura di chi ha di violenza e menzogne gli occhi grigi di carogne. Padroni di grandi aziende bene armate di mezzi e gente già perduta, rinunziata la casualità infinita di una storia inconsueta che ogni uomo è un poeta. Le fotografie da appendere al muro, le fotografie che servono a compiacere, le fotografie che lasciano le cose come stanno. Non ho mai amato la fotografia che documenta, la fotografia che mostra il mondo com'è, la fotografia da prova a carico o a discarico, fotografia passiva che non altera i rapporti di forza orribili che reggono il mondo. È la cosa più reazionaria che ci possa essere. Ho sempre amato la fotografia che va al di là della realtà. Al di là della realtà così come appare. Amo la fotografia che riesce a mostrarsi e che riesce a mostrare anche quello che non si vede. Quella che riesce a vedere le speranze delle persone rappresentate. E se non ci sono, se c'è solo disperazione nell'umanità che mostra, faccia partecipare le speranze del fotografo, la sete che lo ha spinto per la strada. Non ho mai amato le fotografie che sembrano così belle da poter fare a meno dello spettatore, che condannano lo spettatore a un ruolo inutile e passivo, che sembrano così belle da reggersi da sole davanti agli occhi degli spettatori, sono nate già morte. Le più celebrate sono degli inutili idoli morti, idoli che puntellano realtà statiche, le cementificano, le rapprendono per sempre. Amo la fotografia che richiede la partecipazione dello spettatore, che ne ha bisogno, che chiama lo spettatore a dare giudizi sulla realtà che sta vivendo, che chiama lo spettatore a un ruolo attivo di essere umano. Amo la fotografia che aiuta a vivere, che tiene compagnia. Amo la fotografia che non serve niente e nessuno, che ha vita e dignità propria, che non serve a niente, come l'amicizia e l'amore. Gli zingari me li sono sentiti accanto tanti anni fa. senza che loro nemmeno se ne accorgessero. Tanti anni fa, quando ero un giovane fotografo, avevo un modo particolare di vedere. Lavoravo per i giornali della sinistra più estrema ed ero sempre discriminato, differenziato. I fotografi si volevano tutti bene allora, in quegli anni in cui sembrava che tutto cambiasse. I più autorevoli di loro chiedevano conto alle autorità del trattamento particolare che riservavano al loro giovane collega. Prefetti e questori si rifacevano a disposizioni e decreti che sembravano non finissero mai. Ma un giorno finirono. Rimaneva solo una vecchia circolare emanata più di un secolo prima. La fotografia era stata inventata da poco e già i fotografi erano un problema. Pare che riempissero le più belle piazze romane, intralciassero il traffico, si immischiassero nelle vicende della città e non si era fatto in tempo a emanare leggi che li tenessero a bada. Si risolse il problema con la circolare che diceva che ai fotografi dovevano essere applicate le stesse leggi che controllavano guitti, saltimbanchi, mimi, cantastorie, vagabondi e zingari. Quell'antica circolare fu rispolverata per il giovane fotografo. I miei autorevoli e più anziani colleghi si dichiararono costernati. A me la circolare tanto assurda non sembrava. Nel mio lavoro, quei ruoli avevo fatto in tempo a coprirli tutti. Non capivo solo cosa c'entrassero gli zingari. Passarono una decina d'anni. Al nord il movimento operaio subì una sconfitta epocale. Pochi giorni dopo, un terremoto fece crollare il sud che conoscevo e amavo. I miei giornali finirono. Il mio mondo finì. Ero distrutto e solo. Fu allora che incontrai gli zingari. Mi offrirono la loro amicizia e le loro immagini. Sono particolari le immagini degli zingari. Sono senza tempo. Sembra di averle viste, di averle cercate da sempre. Si mettono insieme per comunicare gioia, per danzare, per fare festa. E le linee dei loro corpi, delle loro vesti, gli angoli delle loro membra, la luce dei loro occhi e le espressioni dei volti formano immagini che emanano quella gioia, trasmettono quella gioia. Si cercano per aiutarsi a sopportare un dolore tremendo, un lutto senza pace, e formano immagini che di per sé cercano, chiamano partecipazione. Le fotografie non fanno altro che tentare di fissare, tentare di perpetuare quelle immagini. Come gli zingari rendono la vita visibile, un teatro di tutti, aperto a tutti. La vecchia circolare ha ragione. Ero in riva al mare solo a pensare della mia vita. Che ne sarà? E vedo i rom salire, le mani in tasca, la faccia pesta, come si ha. Quando piegati ti fanno entrare sulla volante, la testa bassa, come si sta. Tra gli occhi cattivi attenti di questi tempi, con questi esempi, è come che va. E partire tra tanta gente priva d'amore che fa scedere rancore, come si sa. E allora io chiuso i miei occhi al vento ed ho sognato ed anche visto come si fa. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con il mutuo in testa per contrattare col comune una casa popolare col giardino, la terrazza e neanche un contatore. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca per entrare nella sede della Banca Nazionale e discutere la soppressione d'ogni debito personale. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri. fabbricon. La legge in testa per aprire il portone d'ogni centro d'espulsione ed avere tutti uguali passaporti internazionali. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca per uscire di prigione tutti insieme a colazione e al buffet del Senato. Ogni reato è condonato. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con lo stipendio in testa per parlare col sindacato, l'amministratore delegato del capitale accumulato e che va restituito. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca per dimostrare al politico liberal socialdemocratico che ogni ricco è un cannone di violenza e di illusione. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con l'esplosione in testa e urlare forte già tutto l'imbroglio del denaro per una giusta uguaglianza tra chi ha tutto e chi è senza. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri con al mare, solo a pensare della mia vita, che ne sarà? E vedo Durom salire le mani in tasca ed un sorriso, come si ha quando poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, si ha la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, si ha l'idea esatta. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, si fa la cosa giusta. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, la bomba in tasca. Poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, la bomba in tasca. Un destino non proprio bello hanno avuto da noi le immagini degli operai. Forse perché il nostro è un paese particolare, imbevuto di una cultura classica letta male. Chi aveva la fortuna di andare a scuola trovava più comodo o più conveniente per la quiete della propria vita apprendere solo la parte più miserabile degli insegnamenti di Seneca e di Plinio il Giovane. Quella parte che permetteva loro, con un po' di erudizione e un buonismo ipocrita, di mantenere un classismo spietato. Cattiva erudizione, buonismo, ipocrisia servivano a evitare questioni reali e fondamentali, ad aggirare valori primari quali la dignità di tutti gli uomini e l'uguaglianza. L'immagine a cui era concesso vivere era solo quella che rispecchia e riflette questo punto di vista. Per quasi un secolo e mezzo, nelle fotografie, gli operai e con loro tutti gli oppositori reali o potenziali subiscono un furto di umanità, di caratteristiche umane, di bellezza, di cultura, di modi di guardare e di guardarsi. Ci può essere attenzione per la loro funzione, per il loro ruolo, per il loro lavoro in quanto fonte di profitto. Talvolta può comparire la loro possibile minacciosità, ma i loro sentimenti non compaiono mai. La fotografia è usata solo per asservire, addomesticare, spingere a vergognarsi, annegarsi. La bellezza, quella vera, deve essere altrove. La bellezza appartiene a chi comanda. E alla fine degli anni 60 e soprattutto all'inizio del decennio successivo che gli operai irrompono nella storia con un volto umano, bello, consapevole, nuovo. Irrompono nelle strade e nella storia sorridendo. Ogni epoca, ogni età ha i suoi volti, i suoi occhi, i suoi sguardi, le sue espressioni. Sono le aspirazioni a ravvivare i volti e le aspirazioni, le istanze sgorgano tutte insieme. I pensieri, le parole, il linguaggio stentavano a star loro dietro. Erano gli occhi, l'immagine, la fotografia a leggere e mostrare quella novità. Ogni epoca ha i suoi volti. Possiamo anche dire che ogni epoca ha i suoi sorrisi. ma quella è l'unica stagione in cui i sorrisi vengono tutti insieme. Finalmente i senza potere irrompono nella storia tutti insieme, e tutti insieme sono un ceto, un popolo che non si era mai visto. Si è incrementato a dismisura il luogo comune che esiste solo quello che viene mostrato, che è successo solo quello che è mostrato. Così chi detiene i rubinetti delle immagini fa capitare quello che vuole lui, quello che conviene alle forze che lui rappresenta. Raramente gli oppressi, quelli che hanno veramente fame e sete di giustizia, gestiscono i rubinetti di qualche cosa. Dispongono solo di rubinetti della loro fame e sete di giustizia. Su quelli debbono lavorare, e penso proprio che la fotografia possa essere anche per loro il mezzo più adatto. Una fotografia completamente diversa dalla fotografia ladra di contesto, completamente diversa dalla fotografia priva di tutto ciò che non si vede, dalla fotografia che non mostra le speranze di un popolo, di un gruppo umano o anche di una sola persona che parla per tutti. Diversa dalla fotografia ladra di invisibile. Per una buona fotografia che si regga sull'invisibile occorre l'attenzione di tutta una vita. Gli oppressi e gli innovatori ce l'hanno. In questo possono essere i più forti. Occorre anche uno sconfinato, assoluto amore. E questo gli oppressi, che hanno consapevolezza della loro condizione, ce l'hanno pure. E anche in questo possono essere più forti. Immagini di questo tipo sono appannaggio, patrimonio dell'oppresso. L'oppressore non può costruire artificialmente la sete di giustizia, lo sconfinato amore, una vita intera di tensione verso gli ideali assoluti. Ci sono fotografie che mostrano tutto questo. Personaggi, volti, si rivolgono all'immagine, si appellano all'immagine. In un frammento di secondo raccontano la loro vita passata, il loro presente, quello che sarà il loro destino. Noi, che veniamo dopo, conosciamo il loro destino. Le immagini non mentono, mostrano anche le loro aspirazioni, le loro speranze. Non si vedono, ma si sentono, come una musica che non finisce mai. Lai lai lai lai lai lai la, lai lai lai lai lai lai la. Scavo le unghie e me le levo, il sangue mi consumo, sudore dentro il fumo, nella caldaia infame del globo industriale. Io sono l'animale che solo deve stare chinato a lavorare. Ma nel cielo c'è un pensiero che se poi fosse vero e levasse il velo scuro, potremmo per davvero trovare un albracato nei confini del reame. Io fugo la mia fame e trasporto sulla schiena le frustate, la catena del globo industriale. Io sono l'animale che solo deve subire in silenzio e poi affogare. Ma nel cielo c'è un pensiero che se poi fosse vero e levasse il velo scuro, potremmo per davvero trovare un altro in riga tra i banchi o nei plotoni, le misure sui coglioni, le ammissioni dei tribuni, il passo agli scarponi del globo industriale. Io sono l'animale che solo devi odiare, imparare e poi sparare. Ma nel cielo c'è un pensiero che se poi fosse vero e levasse il velo scuro, potremmo per davvero trovare un altro. Seduto davanti ad uno schermo, devo restare fermo e cambiare un mio governo di un democratico padre eterno del globo industriale. Io sono l'animale che solo deve contare rate in banca e poi votare. Ma nel cielo c'è un pensiero che se poi fosse vero e levasse il velo scuro, potremmo per davvero trovare un altro infermo in fondo a un ospedale. Il cuore mi fa male, nel corpo tumorale, la flebo con il sale del globo industriale. Io sono l'animale che solo nel rancore deve ammalarsi e poi sparire. Ma nel cielo c'è un pensiero che se poi fosse vero e levasse il velo scuro, potremmo per davvero trovare un altro morto sepolto al cimitero. Precipito l'emisfero e disperdo il mio pensiero tra il carbone e il ferro scuro. Trovo un tunnel tutto nero, mi incammino e mi consolo. Qua giù non sono solo, c'è lo schiavo e il suo lavoro. Allora urlo e mi protendo contro tutto il tornaconto del globo industriale. Qua è vivo l'animale e vuole risalire e chiude le miniere, e chiude le miniere, e chiude le lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Arrestati in cella con i ladri, formiamo i nostri quadri, parole e sentimenti per fare i nostri conti col globo industriale. Qua in vivo l'animale e vuole risalire e chiude le miniere. Qua è vivo l'animale e vuole risalire e chiude le miniere. Perché nel cielo c'è un pensiero, è un fulmine davvero che squarcia il velo scuro. Perché nel cielo c'è un pensiero che in tutto il mondo intero si debba per davvero. Perché nel cielo c'è un pensiero che in tutto il mondo intero si debba per davvero trovare un altro modo, trovare un altro modo, trovare un altro lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. La vita chiamò fuori dalle università i più inquieti studenti dei primi anni 60. Entrarono nei partiti, nelle chiese, nei sindacati, in organizzazioni di tutti i tipi, tutti avevano fatto la loro scelta di campo. Finiva il miracolo italiano. Le bandiere rosse ricomparivano sui tetti delle fabbriche. Ovunque quei giovani portavano la loro inquietudine e la loro insoddisfazione. Divennero insopportabili per i partiti, per le chiese, per i sindacati, per le organizzazioni di tutti i tipi. Furono cacciati, respinti. Qualcuno di questi giovani si rifugiò nelle baracche dei senza casa. Qualcuno finì in carcere. Ci fu chi si ritrovò in manicomio, chi subì nelle caserme le forme più dure di riduzione all'obbedienza. Nel 68 quegli ex studenti avevano una venticinquina d'anni e avevano fatto il loro praticantato nella vita. Con loro irrompono nel movimento e si affacciano per la prima volta nella storia i loro nuovi amici. Quelli che avevano incontrato da cacciati, da respinti, da bocciati, erano quelli che erano stati sempre disprezzati, bollati, evitati, usati, comprati, venduti, schifati, sempre da tutti, anche dai testi sacri della sinistra. Si creò un nuovo ceto, un ceto che non c'era mai stato, non si era mai visto. Persone che per mestiere parlavano sempre, scrivevano sempre, sedevano a tavola con chi non aveva mai parlato, non aveva mai saputo scrivere e si mangiava tutti insieme, come quegli studenti avevano imparato nelle carceri, nei manicomi, nelle caserme, sotto gli archi degli acquedotti romani. Vennero anche le donne, tantissime donne, vennero da sole, loro non le aveva portate nessuno, e vennero gli artisti. Quelli che avevano scelto le immagini, quelli che avevano tracciato i segni della novità, il rifiuto di un mondo classista. Le linee che loro tracciavano erano linee che ci tenevano uniti tutti. Il movimento, mentre nasceva, sapeva già parlare. Parlava una lingua avvincente e difficile. Parlava la lingua dei pazzi e degli artisti. Non è una fotografia che può fare la verità. La verità non è una pallina da tennis che si intercetta. Non è un rigore che si para con vigoria e prontezza. Non è una farfalla, anche se bellissima, che si può catturare con una retina. Non è un episodio di cronaca che si riprende con una macchina fotografica. Può essere frammento di verità il modo di guardarlo, quell'episodio di cronaca. Il modo di inserirlo nel contesto del tempo, del periodo. Come Sander, anche i miei maestri volevano dire la verità sul loro tempo e sulla gente. Di loro sono state prese le immagini. Sono state anche trattate bene, come delle perle, perle della storia. Ma la collana non è stata mai fatta. Il loro modo di vedere, la loro interpretazione, la verità che avevano urlato, era tornata indietro. Loro l'avevano ripresa e tenuta stretta per tutta la vita. La verità urlata era diventata il loro segreto, da confidare solo a chi amavano. Ho un segreto. Cominciavano così i racconti dei più anziani di loro. Guardo i movimenti di oggi e mi sembrano dei rampicanti del potere. Vivono in funzione del potere, stazionano sotto i palazzi del potere. Il loro interlocutore è il potere. Tutto ruota intorno al potere. Non cercano, non sentono la mancanza di quella autonomia culturale che è stata strappata con la forza ai movimenti del passato. C'è una sensazione di dipendenza, la sensazione di vedere una miseria culturale che macina tutto con sé, qualcosa che strozza e soffoca. Non c'è una consapevolezza di potercela fare senza il potere. La vita la determina lui, anche la storia determina lui, anche il passato determina lui. Non c'è fede nella verità. Bellezza, finezza, verità hanno sempre accompagnato i movimenti, non lasciavano indifferente nessuno. La verità può cambiare le cose, può cambiare un paese, la verità può cambiare tutto. Ho avuto il privilegio di vedere il mio paese cambiare, e non è cambiato per i partiti, per il potere, per le istituzioni, è cambiato per le donne, per i giovani che urlavano in strada la verità. C'era autonomia culturale allora. C'era una fede assoluta nella verità, fede nel contagio della verità, fede nel bisogno di verità, nella sete di verità che coinvolge tutti gli uomini, fede nella verità, anche se si è soli a professarla. Vedo una luce oltre la barca, sprona, respingono, io dormirò, dormo e mi sogno dentro la culla, dormi e dormi e dormirò. Per questo mondo non sono mai nato, dormo e dormo e giù scenderò. Sogno e dormo dentro una culla, solo sul fondo a voi penserò. Per questo mondo non sono mai nato, dormo, dormo e giù scenderò. Per questo mondo non sono esistito, sembra che dormo, ma questo lo so. Sembra che dormo, ma questo lo so. Negli anni del fascismo toglievano dal centro storico romano quegli abitanti che avrebbero potuto provocare fastidi. Nacquero le borgate, quartieri periferici dove si arrivava per una sola strada. In caso di proteste, di sommosse, sarebbe bastata una mitragliatrice per isolarle, tenerle a bada. Anche la scuola doveva fare la sua parte, doveva discriminare gli esclusi, spingerli alla passività, spingerli piano piano a negarsi, a spegnersi, a vergognarsi di se stessi. Le donne riempivano i treni delle mondine che andavano al nord, gli uomini lavoravano nell'edilizia. Nel dopoguerra le borgate furono sacche sicure di voti per i partiti della sinistra, furono le roccaforti della giovane democrazia. Dalle borgate partivano i grandi scioperi degli edili romani. Per spezzarli, la celere vi attuava delle vere e proprie spedizioni punitive. Davanti al cinema di Primavalle fu ucciso da un colpo di moschetto un giovane sindacalista. Si chiamava Tanas. Con lui c'era Franco, un mio collega, anche lui nato a Primavalle. «Ti ricordi?» mi chiedeva. Annuivo. Non gli dicevo che a quel tempo abitavo in un'altra città e non andavo in prima elementare. Ma era vero che ricordavo. Ricordavo perché lui non aveva dimenticato. Franco non voleva dimenticare. E ricordava anche quando tutti volevano dimenticare. Ci vuole coraggio. Non vado pazzo per le grida che invocano la legalità. Non mi piacciono. Non mi piace la parola legalità. Non mi fa sentire fratello delle persone che scendono in piazza e la urlano con la sicurezza e l'arroganza dei giusti. Non vado pazzo per chi si identifica in un codice penale, con chi si identifica con una legge, con dei magistrati che hanno sempre giudicato legale l'omicidio delle mie sorelle e dei miei fratelli. Legale o dovuto a incidente o malore, magari attivo. Vado pazzo per la coscienza. Anche per la parola, coscienza, termine desueto che non si usa, ma c'è, esiste. Che legge dovevo seguire nella Grecia dei colonnelli, nella Spagna di Franco? Che foto legali dovevo fare? Legali per chi? Me lo chiedo anche per alcuni periodi poco luminosi e poco illuminati del nostro paese. Me lo chiedo per i periodi in cui ho dovuto lavorare nel mio paese da abusivo. Mi erano state ritirate le carte, le tessere, il lasciapassare. La mattina uscivo con la macchina fotografica sotto la giacca. Mi guardavo intorno prima di tirarla fuori. Non ero in regola. Mi sentivo come i saltimbanchi, i guitti, eternamente abusivi, illegali, clandestini. La mia legge era la mia coscienza. I miei lavori migliori sono nati nonostante la legge. Non hanno mai avuto il timbro della legalità, non hanno mai cercato l'approvazione, il consenso, il premio della legalità, hanno cercato l'attenzione, il cuore, la coscienza degli spettatori. Qualche volta ci sono riusciti. La legge, la legalità non c'entrano, non c'erano, e se c'erano, dormivano. La storia non è soltanto passata dalle borgate romane, dalle periferie romane. La storia è anche partita dalle periferie romane. Ha avuto il suo avvio nelle borgate romane. Adesso i diritti delle donne sono conosciuti in tutto il mondo. Conosciuti, anche se non riconosciuti. Ma chi pensava che le donne avessero dei diritti? Chi pensava dovessero avere dei diritti? E chi sapeva come erano fatti i diritti delle donne? Il fotografo può dire di averli visti nascere i diritti delle donne. Non sono nati nelle sezioni femminili dei partiti, non sono stati elaborati nelle università, nemmeno nei salotti che contano, nemmeno nelle austere aule parlamentari, non sono nati in quelle mostruose creazioni che sono le commissioni per le pari opportunità. I diritti delle donne sono nati dalle grida delle donne romane che hanno avuto le loro figlie e i loro figli uccisi dai poteri ingiusti che si sono succeduti nella storia della nostra città. Francesco! Francesco! Quel grido lo conosciamo tutti. Anna Magnani, una grande artista, lo ha ripreso quel grido, lo ha cullato, lo ha amato, lo ha lavorato e messo nel cuore dell'umanità. Dolore, disperazione, amabilità. Anna Magnani grida e rimane sola sulla pellicola. Le donne romane hanno avuto la forza di mettersi insieme. chi urlava non rimaneva sola. Sono il lupo che aspetta la cicogna, sono il lupo che sta intorno alla tua culla, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che fa sì che tu cresca, sono il lupo che sta intorno alla tua testa, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che costruisce ogni cosa, sono il lupo che gira intorno alla tua casa, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che sono il lupo. Triste è la vita dei palestinesi. Molti di noi hanno visitato i campi dei profughi. Conosciamo lo strazio e la fatica delle madri che tentano di tessere intorno ai loro bambini un riparo di serenità, di quiete, di normalità. Le abbiamo viste cuocere piccoli pani ad un fuoco di sacchetti di plastica. Le abbiamo viste allattare, abbracciando strette il loro ultimo nato, quasi a volerlo rimettere all'interno del proprio corpo. Triste è la vita dei palestinesi nei loro campi. Possiamo affrontare un viaggio e diventare loro amici. Sono il lupo che ti ruba il primo bacio, sono il lupo che gira intorno al tuo segreto, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti sperde dentro un bosco, sono il lupo che ti spegne dietro un chiosco, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti guarda la vergogna, sono il lupo che da dentro ti sogna, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che sono il lupo. Più difficile per un viaggiatore è imbattersi in un villaggio fantasma. Un villaggio fantasma non è segnato su nessuna carta d'Israele. Un villaggio fantasma è un rimorso vergognoso e impresentabile. Nessuno te lo indica. Ho avuto l'avventura di imbattermi in uno, forse il più fantasma di tutti. Il rimorso più artistico, più di qualità. Ero sulle tracce di un pittore dadaista amico di Lenin. Con Lenin giocava a scacchi in un celebre locale del centro medievale di Zurigo, tra bicchieri di birra e uova sode in salamoia. Si era poi stabilito in Palestina. Un'avanguardia del Novecento nel dramma che mi scassava il cuore. Sono il lupo che ti segue negli studi, sono il lupo che controlla se tu cadi, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti cuce l'uniforme, sono il lupo che segue le tue orme, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti trova un lavoro, sono il lupo che ti fa credere nell'oro, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che accarezza suo agnello, sono il lupo che affila il suo coltello, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che non ulula la luna, sono il lupo che ha il camello nella cruna, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti toglie dalla gara, sono il lupo che gira intorno alla tua bara, sono il lupo che seppellisce te. La sua casa era in un bellissimo villaggio tolto agli arabi e dato agli artisti che venivano dall'Europa. Gli artisti avevano mozzato il minareto e adibito la moschea a tavola calda. Ogni casa era diventata uno studio lussuoso con un giardino pieno di fiori. Chiesi che fine avessero fatto gli arabi, quelli che erano vissuti in quelle case. Qualcuno non mi rispose, qualcuno disse di non sapere, qualcuno mi voltò le spalle. Una persona gentile che scopava la strada, con un cenno del capo, mi indicò la collina sopra di noi. Mi inerpicai per un sentiero e vidi il villaggio che non esisteva, costruito con materiali di fortuna, senza strade, senza acqua corrente. Da tutte le casupole mal combinate si poteva vedere La bellezza tranquilla, millenaria, proporzionata, corale, assoluta dell'antico villaggio. Nei taccuini, nelle opere del vecchio dadaista amico di Lenin, i palestinesi non esistevano. Mi chiedo se sarebbero esistiti per Lenin. Il popolo palestinese ha occhi grandi e splendidi. Li ho visti guardare dalla collina. Da più di 60 anni guardano dalla collina. Il viaggiatore vorrebbe che riavessero il loro villaggio. Ma nell'Europa di Lenin e dei dadaisti non c'è pietà per i vinti, per i colonizzati. Vige la forza, l'omertà, il silenzio. Silenzio, silenzio. La verità, una bella immagine, un movimento innovatore, sono tali perché non lasciano indifferente nessuno. Coinvolgono tutti, anche i nemici, anche i conservatori, anche quelli a cui conviene il mondo com'è. E lo difendono con tutti i mezzi a loro disposizione. La verità, l'immagine, il movimento scuotono tutti, permeano tutti, anche quelli che li avversano, anche quelli che si scagliano contro di loro, anche quelli che tessono intrighi contro di loro, anche quelli che tentano di ucciderli. Nella foga, nel furore, nella voglia di sangue e di morte, nei bastoni, nei manganelli, nelle armi, si può vedere la volontà, quasi il bisogno, la necessità di farla finita con quella parte di loro stessi che dalla verità è stata contaminata, dal movimento è stata scardinata, dall'immagine è stata cambiata. Si può leggere il desiderio irrefrenabile di tornare alla quiete, al torpore di prima. Le più sconvolgenti sono state le donne. Sembrava che i palazzi romani tremassero. Certe notti si ritrovavano tutte insieme nel centro della città. Calava un silenzio irreale. Si potevano percepire passi leggeri, sospiri, fruscio di vesti. Si alzava un grido di ragazza molto giovane. Si alzava fino a incrinarsi. «Donna, lo sai la forza che hai! Sì, lo so la forza che ho!» Sembrava che tutto fosse lì per cambiare. I partiti e le istituzioni si barricarono, invocarono la mano pesante dello Stato, il sacrificio umano. I palazzi romani si riorganizzarono. Ci furono cariche, percosse, retate. Nelle notti romane le donne urlarono di dolore e di terrore. Tutti quelli che l'avevano preteso in Parlamento ebbero il loro sacrificio umano. La sera in cui Giorgiana fu uccisa, il 12 maggio, i senatori uscivano e si salutavano come scolari dopo l'esame. Al fotografo sembrò che sorridessero tutti. Ninna nanna, ninna, questo figlio più non ho, l'han portato via dal mondo in un feroce giro tondo. L'han portato via dal mondo, l'han buttato giù sul fondo. Ninna nanna, ninna, questo figlio più non vedrò. Risuonare alla mia porta e riabbracciarmi un'altra volta, ribussare alla mia porta e ribaciarmi un'altra volta. Ninna nanna, Ninna, questo corpo a chi lo do? Lo darò alla questura per un'ultima tortura. Lo darò questo figlio più non ho, io lo darò questo figlio più non ho, io lo darò questo figlio più non ho, ninna nanna ninna oh. Questo figlio a chi lo do? Ai potenti della terra, della fame e della guerra, ai servi del potere, delle armate di galere, agli arricchiti della terra, sulla fame della guerra, agli impiegati del sapere, gli ospedali e delle scuole. Lo darò, questo figlio più non ho, io lo darò, questo figlio, ninna nanna, ninna, questo figlio più non ho, l'han portato via dal mondo, gli ha sparato qua giù in fondo, l'han portato via dal mondo in un calcolato giro tondo, e gli ha sparato qua nel mondo, sì, l'ha schiacciato giù sul fondo. Ninna nanna, ninna oh, questo figlio più non vedrò ribussare alla mia porta e riabbracciarmi un'altra volta, risuonare alla mia porta col suo sorriso l'ultima volta. Dovevano avere degli ordini precisi. I manganelli e i calci dei fucili colpivano con determinazione e fermezza. Le donne non urlavano. Il dolore spalancava le loro bocche, ma il lamento non usciva, come se non volessero più respirare. Non smettevano di picchiare. Volevano essere sicuri che le donne non tornassero. Si davano il cambio sedute in cerchio sull'asfalto macchiato del sangue di Giorgiana. Le loro spalle si toccavano, oscillavano piano, come se cullassero qualcosa. Quelle grida ingoiate, mutilate, la sensazione da incubo, di non essere capaci di sentirle, il rimorso di non aver urlato tutti insieme con tutta la forza, accompagnano una generazione. Sono il fantasma di ogni vita normale, addomesticata, pentita. Tante volte nella vita e nel mestiere che amo mi sono chiesto come sono fatti i ricordi, di cosa sono fatti i ricordi. Anche questo 12 maggio me lo chiedo, diventato vecchio nella vita e nel mestiere che amo. Forse non è altro che una questione di tempo e di luce, come nella fotografia, come nel cinema. Anche i ricordi sono fatti di tempo e di luce, un tempo plastico che si allunga e si accorcia, si allarga e si stringe. Prima o poi finisce col trovare un accordo col tempo della vita. Prima o poi i ricordi si sistemano, trovano il loro ordine, smettono di accavallarsi, di azzuffarsi, di fare male. La luce che nel tempo li stampa, li fissa, li cuce, finisce col trovare la sua accettabilità. Non è sempre carezzevole. Può rimanere qualche contrasto un po' troppo accentuato, qualche sfiammatura, qualche punto troppo scuro, troppo impastato. Diventa sopportabile, smette di ferire. Ma ci sono ricordi più forti della stessa memoria. Ricordi in cui il tempo finisce di colpo, si ferma per sempre. E la luce che trascina le immagini non riesce a lasciare quel tempo mozzato. Ha paura di perdersi, torna indietro, rimbalza, si avvolge, si aggrappa, diventa più bianca, cruda, come quella dei vecchi lampi a polvere di magnesio. E diventa concreta. Diventa un vento che spinge indietro le vesti, i capelli e scopre i volti. I ricordi si fermano, si ghiacciano. E quella luce lavora ogni grana, ogni punto, li trasforma in cocci di bottiglia.